2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 20 febbraio 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 radio24.it. Potete scriverci una email per qualsiasi motivo. Se dopo qualche settimana non avete ricevuto una risposta, potete riscriverci per tirarci un po' le orecchie. Bene, questa settimana parliamo ampiamente, una pagina per fare un po' il punto della situazione su una industria esplosiva come quella della telefonia mobile. Siamo appena tornati dal Mobile Congress di Barcellona e quindi faremo un po' il punto della situazione con parecchi ospiti e parecchie voci. Vi ricordo che già da una settimana il file MP3 di 2024 è disponibile attraverso il servizio podcast entro un'ora e mezza dalla fine della trasmissione, quindi potrete scaricarlo a partire al massimo dalle 18.30 del sabato. Per questo, come sempre, ringraziamo i nostri tecnici. Oggi in regia c'è Paolo Corleoni. Questa settimana adesso abbiamo alcune notizie della settimana. La prima riguarda Microsoft e Yahoo. Hanno ricevuto il via libera dalle autorità americane e da quelle europee per concludere l'integrazione annunciata a luglio 2009. Le due aziende utilizzeranno come unico motore di ricerca Bing e quindi la tecnologia di Microsoft, mentre le attività di raccolta pubblicitaria saranno affidate a Yahoo, che manterrà anche la caratteristica di portale di contenuti e servizi. L'alleanza è stata pensata per cercare di guadagnare quote di mercato e fare concorrenza a Google nel ricco settore dei motori di ricerca, dove Google ha una quota del 65% negli Stati Uniti, ma pensate di circa il 90% a livello mondiale. Altra notizia che riguarda Microsoft e le autorità europee: la società americana comincerà dalla prossima settimana ad offrire su alcune versioni di Windows vendute in Europa la possibilità di scelta del browser web, cioè il programma per navigare in internet. Poiché Microsoft ha una posizione dominante nel settore dei sistemi operativi, l'Unione Europea ha obbligato la società a fornire una scelta fra diversi programmi di navigazione e quindi non solo proporre non solo il proprio Internet Explorer, che oggi in Europa ha una quota di mercato del 45%, seguito da Firefox, che cresce molto bene, ha una quota del 39%, Chrome di Google il 6%, Opera un po' più del 4%, infine Safari dell'Apple con quasi il 4%. Un'altra notizia della settimana riguarda la sicurezza informatica, o potremmo dire l'insicurezza informatica. Una società americana ha scoperto un attacco diretto a, pensate, 75.000 computer in tutto il mondo, in 2.500 aziende in quasi 200 paesi del mondo. Una vera e propria epidemia globale digitale partita, secondo l'analisi di una società americana, dall'Europa dell'Est, che sarebbe in atto da circa un anno e mezzo. Il sistema è quello che abbiamo descritto in altre puntate di 2024, cioè migliaia di computer che sono connessi ad internet, che non hanno aggiornati i propri sistemi e non hanno nemmeno software antivirus, quindi software per la sicurezza, vengono colpiti in maniera silenziosa ed entrano a fare parte di una rete collegata, controllata dagli hacker. Quindi l'utente potrebbe continuare ad usare il computer in alcuni casi addirittura senza accorgersi di nulla. Anche in questo caso, se mai ce ne fosse bisogno, la scoperta di questo attacco dimostra che nel mondo ci sono ancora tante aziende che hanno problemi di security, ma il problema riguarda anche gli stati, che dovrebbero avere una politica di difesa digitale. Un processo molto molto lungo, che non si vede. Un conto è costruire una ferrovia, una centrale elettrica, un conto è agire digitalmente su internet. Dicevo, un processo molto lungo, quindi non semplice da attuare, ma anche di questo abbiamo parlato più volte nel 2024, quindi vi invito a visitare il nostro sito internet www.radio24.it e ad andare nel nostro archivio per riascoltare queste puntate. Oggi, dicevo, la trasmissione è dedicata a quella che una volta era chiamata semplicemente telefonia mobile. Giovedì si è chiuso a Barcellona il Mobile World Congress, che da anni è il più importante appuntamento mondiale per l'industria del settore. Non è stata una fiera dove abbiamo visto nuovi terminali, nuovi telefoni, perché sta accadendo qualcosa di più interessante e più importante. Una rivoluzione determinata da tre fattori, ha detto martedì Eric Schmidt, l'amministratore delegato di Google, per la prima volta tra gli speaker al Mobile Congress. I suggest that there are three historical components for what we're seeing. Now the first is computing. Il primo fattore elencato da Schmidt è la potenza di calcolo dei nuovi processori che stanno letteralmente trasformando gli smartphone di oggi. The second tremendous wave is one about connectivity. Il secondo trend è quello della connettività. Le reti di telefonia mobile stanno passando dalla terza alla quarta generazione, quindi dal 3G, dall'UMTS al 4G, una tecnologia chiamata LTE che sta per Long Term Evolution. In Europa sta succedendo in Svezia e nei prossimi anni vedremo aumentare le capacità di queste reti anche negli altri paesi a partire dalle aree metropolitane. Non sarà un processo veloce, ma il passaggio è cominciato. Now the third and final wave is around cloud computing. Il terzo fattore è quello noto come cloud computing, cioè la capacità di grandi centri di calcolo collegati ad internet, quindi anche ai telefonini, di fornirci un servizio in pochi secondi. Quando ad esempio facciamo una interrogazione ad un motore di ricerca, usiamo una delle applicazioni del cosiddetto cloud computing. Bene, visto quello che sta succedendo nel mondo della telefonia mobile, della mobilità, Google ha coniato anche un motto che è molto esplicativo. We understand that the new rule is mobile first. Mobile first in everything. Mobile first. Prima di tutto la mobilità. E mi sembra molto, molto chiaro. Questo era Eric Schmidt che amministra, che guida Google, che ci ha dato alcuni elementi di cui parleremo oggi con altri ospiti. Con me a Barcellona c'era Massimo Morandi, il nostro esperto di telefonia mobile, direttore di Cellulare Magazine e anche di una pubblicazione che si chiama Smartphone Magazine. Massimo, bentornato 2024. Ciao Enrico, ben ritrovato. Una cosa che vorrei dire agli ascoltatori è una prima sensazione, perché questa è importante. Nonostante il mondo virtuale della rete che ci accompagna tutti i giorni, le fiere rimangono un momento importante, ci si incontra, si scambiano opinioni, si incontrano persone che arrivano da tutto il mondo. Questa è una fiera dedicata solo agli addetti ai lavori, che tra l'altro pagano cifre incredibili, perché il biglietto per entrare costa 2.000 euro, non per i giornalisti per fortuna, ma io ho notato, poi vorrei anche il tuo parere, che questo mondo è già esploso, ma sta esplodendo, perché vedremo veramente nei prossimi anni una crescita incredibile di questo mercato, e forse, non so quanto nel nostro paese ci siamo resi conto che questo è un mercato incredibile. Pensiamo che abbiamo superato i 4 miliardi di SIM, di abbonati in qualche modo al mondo della telefonia mobile in tutto il mondo, ma ci aspettiamo di arrivare a 5 tra poco. Diamo un dato, poi ti lascio il microfono. Ogni mese ci sono 1 milione di abbonati in più in India, ma l'India è un esempio di quello che sta succedendo in giro per il mondo. Massimo. Ma è vero, in realtà dobbiamo un po' ripensare al settore della telefonia, delle telecomunicazioni, della telefonia mobile in modo completamente diverso, perché oggi in questo segmento di mercato converge tutto quello che può portare i servizi sul telefonino, quindi nelle nostre tasche. Quindi è una continua apertura, sembra davvero un mercato che non conosce crisi. Parlando anche con gli analisti a Barcellona, mi sono sentito dire: questo è un mercato che da oggi è in grado di proporre novità fino al 2020, quindi è sicuramente un mercato che non ha mai freni e riesce anche a superare momenti di crisi come quello che abbiamo attraversato quest'anno, addirittura uscendone sempre meglio. Sì, con dati che sono rivisti mese dopo mese, comunque in crescita positiva. Un altro dei cambiamenti che spicca da questo congresso internazionale è quello della importanza sempre maggiore che hanno i sistemi operativi, o comunque il software in generale. Che cosa significa dal tuo punto di vista? Poi su questo avremo anche altri ospiti e altri pareri, però sui sistemi operativi, che poi potremmo anche citare, giusto per fare capire agli ascoltatori? Beh, significa che gli operatori del settore, i distributori, i manifatturieri si sono accorti, hanno capito che l'hardware, il cosiddetto pezzo di ferro, il telefonino, non può più essere solo, ma deve essere accompagnato da una serie di servizi che devono servire per fidelizzare i consumatori e per attrarli in modo più forte. Naturalmente questi servizi scorrono su delle piattaforme software e in questo senso quest'anno a Barcellona si è un po' tornato al passato, si è tornato a parlare meno di nuovi prodotti, ci saranno altri luoghi, altri momenti per presentarli e si è parlato molto di più di piattaforme, magari argomenti un po' ostici ma che secondo me fanno capire come tutti in questo momento l'industria della tecnologia sia preoccupata che i consumatori non abbiano in mano solo un prodotto ma quel prodotto sia solo il punto di inizio per avere molti molti servizi che poi sono i servizi che solitamente utilizziamo dal computer o da internet. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, questa puntata dedicata in gran parte, cioè tutta la puntata dedicata al Mobile World Congress che si è chiuso giovedì a Barcellona. È con noi Massimo Morandi, poi avremo altri ospiti nel corso della trasmissione. Massimo, una parola sugli smartphone, parola che oramai forse viene utilizzata troppo spesso, tuttavia qualche ascoltatore ci scrive ad intervalli regolari, dice: voi parlate solo di smartphone, cioè della fascia alta del mercato, è così o le cose stanno cambiando? Diciamo che gli smartphone hanno rappresentato fino ad oggi il mercato della fascia alta, quindi i top di gamma, ma piano piano stanno scendendo e stanno invadendo la fascia media e addirittura la fascia medio-bassa. Ciò significa che avremo sempre più smartphone, che questo è il settore più in crescita dei telefoni cellulari, e che avremo quindi cellulari sempre più multimediali e sempre più capaci di portarci in tasca nuovi servizi. Quando parliamo dei sistemi operativi, cioè dei software che fanno funzionare il telefono, così come accade con i computer, noi abbiamo Windows, che è il sistema operativo più diffuso, che fa funzionare il computer. Ecco, per i telefoni parliamo di una cosa simile, però c'è, e questo è un altro tema di cui parleremo anche oggi, una frammentazione, potremmo chiamarla così, o comunque una proposta differente con tanti sistemi operativi. Ad esempio, oggi quali sono i più diffusi, quelli di cui si parla di più? Beh, il più diffuso è forse quello che i consumatori conoscono anche di più perché da più tempo sul mercato è Symbian, che è il sistema operativo degli smartphone di Nokia, ma come dicevi tu ne stanno arrivando tantissimi. Uno dei più famosi è Android, che è il sistema operativo di Google, che porta sui telefonini tutti i servizi di Google, appunto. È stato lanciato il nuovo Windows 7, ora siamo al 6.5, ma per il prossimo Natale Microsoft ha promesso l'arrivo della nuova piattaforma. Abbiamo naturalmente la piattaforma dell'iPhone, che molti conoscono molto bene, e il sistema operativo del BlackBerry. Sono solo quelli più famosi, perché poi alla fine ogni telefonino ha un sistema operativo. Fino ad oggi chi acquistava un telefonino non aveva grande interesse nella piattaforma che trovava all'interno. Sì. Oggi c'è più attenzione. Perché c'è più attenzione? Perché a seconda dello smartphone che scegli e a seconda del sistema operativo che compri, avrai a disposizione particolari servizi. E in questo i consumatori cominciano a essere molto attenti. Bene, grazie Massimo. Rimani con noi. Più tardi avremo modo anche di toccare qualche altro elemento che abbiamo visto tra i padiglioni del Mobile Congress. Tra gli annunci più importanti durante la prima giornata, quello di Nokia assieme ad Intel, due colossi, uno della mobilità della telefonia e l'altro del silicio nella produzione di chip, che ha un interesse in particolare e crescente in tutto il segmento della mobility, non ancora sui telefonini ma su una serie di prodotti come ad esempio i netbook o i computer portatili. Nokia e Intel faranno confluire le due piattaforme Linux, Moblin che usa Intel e MIMO che usa Nokia, che ha messo anche nel nuovo N900, verranno fatte confluire in un unico sistema operativo chiamato MeeGo. We'd like to introduce you to MeeGo. This is a merged single software platform for the future of computing devices. MeeGo blends the very best of Moblin and MIMO software into one Linux-based computing platform. Quella che state ascoltando è una breve parte della presentazione, dell'annuncio della conferenza stampa in cui è stata annunciata questa importante alleanza strategica tra Nokia e Intel. As a Linux solution, MIGO will be hosted at the Linux Foundation and will be a fully open source. Il tutto confluirà all'interno della Linux Foundation, perché stiamo parlando di un prodotto, di un sistema operativo basato su Linux, quindi open source, e questo è estremamente importante per il mercato. E proprio sull'importanza dei sistemi operativi e anche del concetto di apertura, che non è di tutti i produttori, abbiamo parlato con Mark Selby di Nokia. La prima domanda è: stanno diventando più importanti i software dei telefoni? Not becoming more important, but the importance of them has increased enormously. Non direi che stanno diventando più importanti, ma la loro importanza è aumentata enormemente. E la ragione è che per avere dei servizi, delle applicazioni sui dispositivi, abbiamo bisogno di sviluppatori che siano in grado di crearle. E dobbiamo essere in grado di farlo in maniera graduale, che porti profitto agli sviluppatori e soddisfi allo stesso tempo gli utenti. And rather than simply showing more devices, the message we want to give here. Insomma, invece di voler semplicemente lanciare nuovi dispositivi, il messaggio che vogliamo dare è che il software riveste un'importanza critica e che noi siamo determinati ad avere un approccio aperto alle piattaforme. Determined to ensure an open approach to platforms. E questa era la voce di Mark Selby di Nokia su un concetto estremamente importante. Nokia continua, ed è sicuramente un atteggiamento apprezzabile e apprezzato dal mercato, a credere che sia necessario un approccio aperto al mercato. Lo ha già fatto con Symbian, che continua lo sviluppo, e lo fa adesso anche assieme ad Intel, presentando questa nuova piattaforma open source. C'è anche un altro grande soggetto, che è Google, che la pensa allo stesso modo, ma non tutti la pensano così, come ad esempio Apple, che continua a mantenere un controllo molto rigido e severo sul proprio sistema operativo, e anche Windows. Steve Ballmer, l'amministratore delegato di Microsoft, è arrivato a Barcellona per dare un assaggio, perché il sistema operativo nuovo di Windows arriverà a dicembre, Windows Mobile numero 7. Ballmer ha scherzato un po' sul numero 7. We hope 7's our lucky number, and Windows Phone 7. Speriamo che il 7 ci porti fortuna, così come è già successo con Windows 7 per PC, che sta andando, le cui vendite stanno andando molto bene. Microsoft spera che ci possa essere un successo anche per questa nuova piattaforma che arriverà alla fine dell'anno. Certo è che le cose nel mondo della telefonia mobile sono un po' più complicate. Adesso è il momento di presentarvi Carolina Milanesi, uno dei nostri esperti a 2024, responsabile mondiale delle ricerche sui dispositivi mobili di Gartner, che abbiamo incontrato per fare il punto della situazione. C'è stata o no un po' di delusione per l'assenza di importanti annunci relativi a nuovi telefoni? Carolina Milanesi. Sì, è vero che c'è delusione, perché dal punto di vista di hardware, quando vedi il prodotto te lo rende reale, invece dal punto di vista di software è molto più difficile vedere quello che puoi avere come consumatore. Però la realtà è che la nostra industria sta cambiando e l'importanza si sta spostando dall'hardware al software, e quindi è anche giusto che l'attenzione della conferenza quest'anno sia stata più sulle piattaforme, sui servizi, sulle applicazioni, che non necessariamente sull'hardware. Come mai quasi tutti stanno cercando di fare il proprio sistema operativo? Per quale motivo? Allora, diciamo che tutti hanno sempre avuto dei propri sistemi operativi. Quello che è diverso è che stanno cercando di far rendere questi sistemi proprietari aperti, e quindi vuol dire cercare di usare gli sviluppatori e le applicazioni che gli sviluppatori portano sul mercato per arricchire l'hardware. E quello che abbiamo visto è che, come dicevi giustamente tu, Apple, RIM anche, non dobbiamo dimenticarcelo, controllano dalla piattaforma fino ai servizi verticalmente, e hanno un controllo proprio del prodotto e di come porti il prodotto sul mercato molto più forte che non usando una piattaforma aperta come può essere Android, che ti limita un attimino in quello che puoi fare. questo è sintomo che siamo solo agli inizi dell'era degli smartphone e dei sistemi operativi? Sì, è interessante perché tante persone mi chiedono: avremo frammentazione o avremo soltanto un sistema operativo come è nella parte PC, no? Non puoi pensare ad un sistema operativo che serve 4 miliardi di utenti nel mondo che vanno da un telefono di $20 a un telefono da $800. Non riuscirai ad avere una piattaforma che è così elastica da coprire il tutto. Quindi è impensabile di avere solo un paio di sistemi operativi. L'altra cosa da dire è che non è il sistema operativo per sé che è importante, è l'ecosistema che viene spinto intorno al sistema operativo. E certo che siamo agli inizi, perché come dicevo prima ci sono tanti sistemi operativi che erano proprietari, che le varie aziende manifatturiere avevano, e adesso invece si cerca di sviluppare proprio di più un'esperienza comune tra le varie piattaforme che si hanno. Parliamo anche di marchi, visto che sono molto riconoscibili anche dal pubblico. Partiamo da Nokia, che non ha presentato nuovi telefoni, ma un sistema operativo a proposito, chiamato MeeGo, forse il nome non è molto facile da ricordare, tra l'altro assieme ad Intel. È una cosa un po' strana. Sì, è una cosa un po' strana di primo acchito, ma poi se ci pensi e guardi al mondo mobile e al mondo del PC e al mondo del consumer electronic, che stanno diventando sempre più uniti, è sempre più una soluzione unica, e non parlerai, specialmente dal sistema operativo, non parlerai più necessariamente di un sistema diverso da un telefono a un PC a una televisione. E è questo che prende queste due aziende che controllano nel loro proprio mondo insieme a cercare di avere una piattaforma che è scalabile attraverso questi tipi di prodotti e che gli dà un modo di lottare, diciamo, contro Android. Qual è la vostra visione su Nokia in questo momento? Ma Nokia continua ad avere ovviamente dei problemi nella parte alta del mercato, e a dire la verità non sono delusa che non abbiano portato dei device, sono anzi quasi contenta che non l'abbiano fatto, perché hanno ancora dei problemi da risolvere dal punto di vista dell'usabilità di Symbian. Ci stanno lavorando, avranno un release di Symbian 3 a metà anno e poi uno a fine anno, che dovrebbe aiutare a vedere un Symbian diverso per Nokia. E l'altro è la piattaforma MAMO, che adesso appunto si unisce a Intel Moblin per creare MeeGo, e altri prodotti arriveranno alla fine dell'anno. Arrivare a qualcosa di fretta per avere giusto di poter dire abbiamo un nuovo device non aveva proprio senso. Un po' come ha cercato di fare Windows con questo annuncio, che poi di fatto non consiste in nulla, perché poi vedremo prodotti a dicembre, se non sbaglio. Assolutamente, per adesso è soltanto la piattaforma. Incoraggiante che, da quello che possiamo vedere, la piattaforma è competitiva. Ci sono ancora tante domande su quello che sarà l'ecosistema che verrà creato intorno alla piattaforma, quello che i consumatori penseranno della brand, perché come dicevi tu i marchi sono molto importanti per il consumatore, e Windows viene sempre percepito come un marchio per il business, non per il consumer. Questa è la voce di Carolina Milanesi di Gartner, che abbiamo incontrato a Barcellona. Seguiteci nel pomeriggio del sabato di Radio 24, oppure online sul nostro sito internet www.radio24.it. Vi ricordo che già da una settimana il file MP3 della nostra trasmissione sarà disponibile attraverso il servizio podcast entro un'ora e mezza dalla fine della trasmissione, quindi potrete scaricarlo a partire al massimo dalle 18.30 del sabato. Questa è una puntata dedicata al Mobile Congress di Barcellona, che si è chiuso giovedì, il più importante appuntamento mondiale sul settore della mobilità. Una volta dicevamo telefonia mobile, ma insomma, per intenderci, di questo stiamo parlando. Tra poco ancora altri pareri li chiederemo a Carolina Milanesi, che osserva questo complesso mercato dalla sede di Gartner di Londra. Prima però vorrei parlare di Motorola, perché alcuni dicono che il Mobile Congress di quest'anno ha decretato la rinascita, il ritorno in grande stile di Motorola. su che cosa punta l'azienda. Ne abbiamo parlato e l'abbiamo chiesto a Paolo Prearo, che da poche settimane è il nuovo responsabile per l'Italia di Motorola. Ma Motorola sta puntando in maniera molto focalizzata su Android. Riteniamo Android essere la piattaforma che in questo momento può rilanciare chiaramente il nostro brand. È chiaro che per essere oggi competitivi in questo mercato dovremmo assolutamente avere un portafoglio prodotti più ampio. Quindi noi nell'arco dell'anno lanceremo un 20 prodotti, gran parte di questi saranno Android, circa un 9, e il resto saranno prodotti di fascia più bassa che andranno chiaramente ad integrare completamente la proposizione di prezzo sul mercato. Android è un sistema operativo che anche altri produttori integrano nel proprio telefono. Come pensate di distinguervi? In realtà è vero, si rischia di essere uguali agli altri. Noi, per differenziarci, ad esempio in questo momento abbiamo puntato molto su un servizio unico di Motorola che si chiama Moto Blur, e che non è altro che una sorta di integratore di tutti quelli che sono i profili di posta elettronica, i profili di social network, la rubrica, i contatti, tutto ciò che voi avete sul vostro PC viene integrato in questo, diciamo, software che con pochissimi passaggi vi permette di avere tutto in un'unica home page. E questa è un'altra tendenza che abbiamo visto, cioè quella della creazione di hub software, cioè di software che concentrano tutti i vari servizi, la posta elettronica o i vari social network ai quali uno è iscritto, in un'unica pagina, in un'unica piattaforma. E altri produttori stanno tentando di fare queste cose, e naturalmente vincerà, anche se questo non sarà il fattore per emergere, l'unico fattore per emergere, ma comunque vincerà chi riuscirà ad integrare meglio questi servizi. Che cosa pensa Carolina Milanesi della strategia nuova, innovativa di Motorola? Ma giudicando dalla grandezza del loro spazio qui, sicuramente più grande dell'anno scorso. Abbiamo visto alcuni nuovi prodotti, c'è il Quench, però fino adesso il mercato rimane molto competitivo per loro. Stiamo chiedendo adesso le stime per la fine anno del 2009. Nell'ultimo trimestre dell'anno scorso hanno fatto soltanto 100.000 pezzi in Europa, quando pensi che erano il numero due un paio di anni fa. È tremendo quanto hanno perso nel mercato. Il posto di Motorola è stato oramai occupato da Samsung, che qua invece ha presentato un nuovo telefono, molti dicono molto molto bello, con uno schermo molto molto bello e anche un proprio sistema operativo. Come si stanno comportando i coreani di Samsung? Sì, Samsung sta vedendo l'opportunità di cui parlavamo appunto due minuti fa, di Rime, di Apple, di avere questo sistema verticale. Quello che stanno guardando è un sistema operativo che era proprietario, che ha avuto molto successo con device, con prodotti come il Jet per esempio, o anche il Corby, che hanno avuto molto successo ma che non hanno la possibilità di avere molte applicazioni perché sono sistemi chiusi. Hanno preso quel sistema aperto agli sviluppatori e l'opportunità di creare molto più forza intorno all'hardware. Per adesso l'unica cosa che vediamo però è l'hardware, che è eccezionale, non c'è dubbio, però dobbiamo vedere di più. Allargando di nuovo lo sguardo, c'è chi dice Samsung, ma anche altri produttori hanno parlato di democratizzazione dello smartphone, cioè quindi dell'abbassamento del prezzo di un prodotto che è touchscreen, che può fare un sacco di cose. Questo tu vedi che sia confermato poi nei fatti, oppure sono slogan? No, non sono slogan, e a dire la verità non è neanche una cosa nuova. Nokia lo sta facendo da anni. Se guardi dove hanno alcuni prezzi dei loro prodotti, siamo al di sotto dei 150 euro prima della sussistenza degli operatori, quindi siamo già a questo livello, e senz'altro questo è quello che dobbiamo fare per arrivare ad avere una penetrazione della vendita smartphone interessante per gli operatori. Non puoi continuare a vendere un iPhone al prezzo che è l'iPhone o anche RIM per veramente arrivare a una penetrazione intorno al 40%. Lo sguardo si deve per forza allargare anche ad altri produttori che non fanno parte dei primi posti della classifica, tipo HTC ad esempio, che mi sembra molto molto aggressiva. Qual è il vostro punto di vista? Sì, molto aggressiva, però forse diciamo la delusione che abbiamo per altri venditori quest'anno, in particolare per HTC, dove lo sviluppo dei prodotti non è stato forse all'altezza di quello che avevamo visto in anni precedenti. comunque continuano a lavorare molto in collaborazione con sia Microsoft che con Android, e credo per loro hanno senz'altro avuto molto più attenzione a CES, dove c'è stato il lancio del Nexus One, che non magari qui con i loro prodotti. Vogliamo dire qualche cosa anche di Sony Ericsson e LG? Sì, Sony Ericsson quest'anno sembrava un'azienda diversa da quella dell'anno scorso. Hanno avuto dei prodotti nuovi, tre prodotti nuovi, due basati su Android e uno basato su Symbian. Sembra che forse stiano ritornando. Per quanto riguarda LG, uno show abbastanza tranquillo, non abbiamo visto moltissimo stamattina, però continuamente parlando di smartphone, continuamente parlando di Android e Microsoft. E questa era Carolina Milanese, che è responsabile mondiale per le ricerche sul settore della mobilità per Gartner. A proposito di Samsung, l'abbiamo detto poco fa, ha presentato un nuovo sistema operativo, o meglio ha aperto il sistema operativo che già veniva utilizzato, ma soprattutto, e se ne è parlato molto, ha presentato un nuovo telefono con un'interfaccia touchscreen e uno schermo innovativo dal punto di vista tecnologico, molto luminoso. Di questo abbiamo parlato con Antonio Bosio, che è responsabile dello sviluppo prodotti di Samsung in Italia. Questo display, che abbiamo chiamato Super AMOLED, rappresenta l'evoluzione dei display AMOLED che abbiamo utilizzato in questi ultimi mesi. Il Super AMOLED è ancora più brillante, fornisce delle immagini di qualità ancora più elevata, perché tecnicamente si è ridotto il numero di elementi che compongono il display nella sua interezza. I vantaggi sono quindi quelli di poter irradiare al meglio la luce generata dal display, rappresentare al meglio i colori e avere una sensibilità del prodotto touch ancora maggiore di quella che avevamo sui modelli precedenti. Voi pensate, dal punto di vista touch, di essere arrivati al livello di altri produttori e comunque non avere differenze sostanziali con altri concorrenti? Rispetto al touch, credo che abbiamo sicuramente compiuto un percorso che ci porta oggi ad essere leader in questo segmento, sia dal punto di vista tecnologico ma anche dal punto di vista della disponibilità della soluzione touch su prodotti con posizionamenti diversi. Ricordo che abbiamo disponibili nei nostri punti vendita dei telefoni touch intorno ai 130-140 euro. Questo permette davvero a tutti di poter utilizzare un prodotto touch. C'è chi dice che la scelta di proporre un nuovo sistema operativo serva anche per questo, cioè quello di posizionare, di estendere la gamma dei touchscreen, quindi dei telefoni cosiddetti smartphone, anche a prezzi inferiori ai classici 400-500 euro. Diciamo che in passato utilizzare un sistema operativo aperto significava dover dotare il terminale di una capacità di calcolo molto elevata, quindi con un hardware costoso. Il fatto di utilizzare invece un sistema operativo aperto come BADA, che controlliamo, che conosciamo molto bene, ci permette di ottimizzare in maniera eccezionale. Questo ci permette in prospettiva di rendere disponibili nella seconda parte del 2010 e nel 2011 dei prodotti con sistema operativo aperto, quindi degli smartphone, ma posizionati in maniera molto aggressiva, quindi con prezzi inferiori a quelli che siamo abituati a vedere oggi. E questo è un punto interessante da approfondire. Vorrei chiedere a Massimo Morandi un parere. C'è chi dice, molti esperti dicono, che soprattutto i prodotti con Android, ma anche altri prodotti, oramai sono arrivati ad un livello di touchscreen, quindi di sensibilità del tocco dello schermo, pari all'iPhone, che fino a un paio di anni fa era ritenuto il livello da raggiungere. Massimo Morandi. Ci sono davvero tanti telefonini touchscreen che oggi sono facili da usare, hanno una sensibilità allo sfioramento con il polpastrello veramente ottima. Direi che hai detto bene, l'iPhone per tanti mesi, forse per tanti anni, è stato il punto insuperabile e comunque il punto dove arrivare, dove è il punto da superare. Oggi, secondo me, l'iPhone è stato preso in questo senso, sia dal punto di vista della piattaforma, sia dal punto di vista della tecnologia di display. In questo ha aiutato molto Android, dobbiamo dirlo, il sistema operativo di Google, che ha dato la possibilità a tanti produttori di arrivare con un nuovo smartphone, con uno smartphone a prezzi piuttosto contenuti e con una tecnologia davvero ben tarata. è un sistema operativo che è nato da pochi mesi, che è nato per il touchscreen, lo si nota utilizzandolo. A questo si aggiunge una eccellente qualità dei nuovi schermi che ha fatto sì che comunque tanti manifatturieri oggi abbiano dei prodotti eccellenti. Vorrei concludere con due pennellate su due argomenti e due temi che abbiamo visto interessanti al Mobile Congress. Uno che sta letteralmente esplodendo è quello delle applicazioni. C'era un padiglione chiamato App Planet, il pianeta delle applicazioni, quindi il software, i programmi che poi vanno installati su i vari smartphone. Di questo abbiamo parlato con tanti operatori, ma anche con Sergio Falletti, che è direttore commerciale di una società inglese che sta a Londra, Future Platforms. Interessante vedere quello che accade a Londra, un mercato sempre un po' più avanti rispetto al nostro, ma sempre un mercato europeo. Non direi, la frammentazione c'è sempre stata, principalmente ai tempi, insomma, parliamo magari 5-6 anni fa, era su Java, applicazioni Java, e l'industria, gli sviluppatori nell'industria parlavano sempre del problema della frammentazione, c'era sempre la promessa che un giorno o l'altro la cosa fosse risolta. E in un certo senso ci aspettavamo che si andasse più nella direzione esattamente del mondo del PC, quindi standard che evolvono e alla fine si arriva con uno o due sistemi operativi vincenti. In realtà quello che stiamo vedendo adesso è completamente l'opposto, e dubito che cambierà, perché abbiamo Android, iPhone, più alcuni dei grandi produttori di telefoni che hanno il loro sistema operativo, e non sembra che cambierà. Quindi in un certo senso il parallelo che vedo di più è quello con le console, quindi i giochi per casa, dove ci sono 3-4 piattaforme che dominano il mercato, e dal punto di vista dell'editore o dello sviluppatore, il fatto che ce ne siano 4 non è un gran problema, perché ogni piattaforma ha un grande mercato. Quindi quando parliamo con i nostri clienti, quello che una volta era una conversazione abbastanza complicata, dove dovevi dire ok, dal loro punto di vista volevano raggiungere, metti l'80% del mercato, e tu dovevi fare un casino di lavoro per cercare di far funzionare il gioco o l'applicazione su una ventina di diversi produttori. Adesso un solo produttore, iPhone ovviamente in primis, ti dà un mercato sufficiente per giustificare il costo di sviluppo e di marketing. Quindi alla fine dei conti finiremo con lo sviluppare, se è una startup, quindi qualcuno che non ha un granché da investire inizialmente, probabilmente si parte da una piattaforma, si vede se funziona commercialmente, se funziona poi vai a lanciare sulle altre. Per le grandi aziende che hanno un pochino più di budget, adesso c'è una sufficiente giustificazione a livello di ritorno di investimento per andare a sviluppare su 3-4 piattaforme allo stesso tempo. Stiamo parlando di un mercato che, come abbiamo detto, è solo agli inizi, parlando del mercato di massa. Oggi iPhone e quindi le applicazioni per quel sistema operativo sono sicuramente tra le più diffuse. Come vedete il mercato in prospettiva? C'è chi dice che Android avrà sicuramente un grande futuro. Dal punto di vista dei sistemi operativi, sì, Android lo vediamo sicuramente come l'equivalente in un certo senso di Windows nel PC, nel senso che è un sistema operativo che sicuramente funziona, è paragonabile a iPhone, è offerto effettivamente gratuitamente agli sviluppatori e ai produttori. Quindi lo vediamo, non è che dobbiamo neanche vederlo, si vedono già i risultati, nel senso che quasi tutti, Sony Ericsson per esempio, Motorola, stanno lanciando telefoni su Android. iPhone sicuramente rimarrà, come Apple è rimasta sul PC, nonostante Windows in un certo senso. E poi probabilmente ci saranno un'altra due o tre piattaforme che rimarranno, non penso cambierà. Vedremo poi come riuscirà a reagire anche Nokia a questo mondo. Che cosa realizzate oggi di più, che tipo di applicazioni realizzate di più e soprattutto che tipo di applicazioni pensate possano essere interessanti per il prossimo futuro? La maggior parte delle applicazioni che stiamo facendo adesso sono per aziende che hanno già una base magari sulla stampa o televisione, che adesso vedono che su mobile, sulla telefonia, si possono fare dei soldi, si possono prendere i loro contenuti e farli funzionare commercialmente. Una cosa che di solito hanno fatto fatica a fare su internet. Quindi mi stai dicendo che pare che almeno le aziende, molte aziende, vedano più facilmente un modo per far soldi il mondo legato alla telefonia mobile rispetto ad internet. Sì, senz'altro. Posso parlarti per esempio del Puzzler Media, che è uno dei nostri clienti più vecchi, diciamo. Ne lavoriamo con loro da 5 anni, sono un editore, hanno un centinaio di anni di storia dietro, e l'unica cosa che hanno sempre fatto è stata pubblicare enigmistica. Non hanno mai fatto internet. 4-5 anni fa hanno cominciato a fare mobile, quindi lanciare Cruciverba, Sudoku, giochi del genere su mobile, e adesso sono arrivati a un punto dove solo in Inghilterra hanno una circolazione di circa 150.000 downloads al mese, tutti pagati. Quindi sono adesso mobile, dal loro punto di vista, è alla stessa altezza di una delle loro testate. E questo direi che sia estremamente interessante. Era Sergio Falletti di Future Platforms da Londra. Massimo Morandi, un'ultima cosa la vogliamo dedicare ai più anziani, perché il mercato si sta accorgendo che molte persone che magari non vedono bene, che non sono così avvezze a usare prodotti tecnologici, rappresentano un grande mercato. Massimo. Sì, perché abbiamo visitato due stand a Barcellona, quello di ITT Telecom e quello di Emporia Telecom. La prima è una società monegasca, la seconda è una società austriaca. Entrambi fanno telefonini per persone che non hanno la capacità di usare cellulari troppo complicati o non hanno la volontà, la voglia, l'interesse. E ci sono dei modelli... Oppure non ci vedono. Oppure hanno ci vedono poco. Assolutamente, sì, problemi, sì, di vista, problemi di udito, problemi anche di motori. Perché? Perché questi cellulari hanno innanzitutto sono molto semplici, hanno tasti molto grandi, hanno display super semplificati, hanno un tasto SOS che può essere sempre collegato a un numero predefinito che può essere avvisato in tempo reale di un'emergenza. E abbiamo visto tra l'altro di Emporia anche un telefonino che non ha menu. Fantastico. È un telefonino quindi che ha solo tasti. Ad ogni tasto corrisponde una funzione, quindi la persona non deve neppure cercare di capirlo, basta spiegargli i tasti, che sono tra l'altro disegnati molto molto bene, hanno delle icone molto chiare, sì, quindi il significato e la funzione dei tasti è molto chiaro. Sono, in ogni caso, anch'io li ho visti, sono tutti telefoni molto grossi, quindi insomma è facile utilizzarli. E sta diventando un mercato che si sta aprendo in modo molto interessante. Perché? Perché cominciano anche a essere belli. I primi erano dei telefoni che erano un po' troppo essenziali e spesso gli anziani non li volevano. Oggi cominciano a essere telefoni che assomigliano molto di più ai cellulari che ai vecchi telecomandi, e quindi il mercato è molto molto vivace anche da questo punto di vista. Quindi complimenti a tutte le aziende che hanno colto anche questa opportunità di business. Vedete che nel settore di opportunità di business ce ne sono per tutti, basta saperle cogliere. Io ringrazio Massimo Morandi per essere stato con noi. Questi telefoni sono già sul mercato oppure no? Quelli di ITT Telecom sono sul mercato già da parecchi anni. Emporia, che è un'azienda austriaca, arriverà tra marzo ed aprile. Grazie Massimo, buon lavoro, a presto. Grazie Enrico e buon lavoro anche a te. E noi chiudiamo questa puntata di 2024, ci risentiamo il prossimo sabato, trovate tutto online, tra meno di un'ora e mezzo sarà disponibile il podcast della nostra trasmissione, trovate tutte le informazioni su www.radio24.it, naturalmente nelle pagine di 2024, il podcast alla voce podcast. Io sono Enrico Paglierini, grazie ai nostri tecnici, grazie anche ad Anita Ariotti in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.